piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Come sapete, insomma, se non lo sapete ve lo dico, io e Paolo abitiamo in due comuni diversi, quindi in due paesi diversi. Quindi questo significa che non possiamo vederci fino al 3 di aprile, sempre se poi non prolungheranno la situazione. Quindi per ora ci dobbiamo appunto accontentare di videochiamate, messaggi, chiamate. Noi ovviamente, cioè, non è che io posso andare in un altro paese e quindi rischiare o far rischiare gli altri per vedere il fidanzato e viceversa. La cosa bruttissima è questa. Ora, non appena smetto appunto di parlare con voi, vado a chiamare Paolo, ci facciamo una videochiamata, così insomma ci vediamo anche se da lontano. Vi avevo detto che ci saremmo occupati delle chimere relazionali. Oggi entro più nel vivo in questo termine. La chimera è un mostro mitologico, lo saprete. Era un leone con una testa di capra sulla schiena e la coda finiva con una testa di serpente. Era un paradosso, un assurdo, qualcosa che univa in sé le caratteristiche di tre animali diversi, più sputava anche fuoco come un drago. La chimera relazionale, secondo me, è l'esito, rispetto ai modelli tradizionali che classificano le relazioni, in questo momento molto particolare possiamo anche vedere come un grande laboratorio di osservazione di mutazioni veloci della società. Le categorie tradizionali sono una coppia stabile, una coppia di persone che convivono, stabile nel senso di certificata e registrata come persone che hanno, si sono impegnate di stare insieme, vivere assieme, avere la stessa residenza, lo stesso domicilio, persone che convivono, persone che si incontrano in una terza parte, a casa di uno, a casa dell'altro, single che hanno una vita relazionale variegata con più persone senza privilegiare nessuno, persone che vivono relazioni a distanza, anche molto appassionate, molto profonde, si vedono secondo alcuni ritmi che si sono reciprocamente assegnati, persone che vivono relazioni intense, profonde, drammatiche, perché clandestine, perché a loro volta hanno altre relazioni, quindi vivono degli amori plurimi, persone che vivono in maniera molto fluttuante la loro vita relazionale, quindi hanno relazioni con una serie di persone che cambia continuamente, hanno relazioni occasionali o hanno rapporti promiscui con chiunque gli capiti a disposizione in quel momento. Non stabilisco nessuna gerarchia e quali siano le categorie ufficiali o quelle cosiddette normali e quelle che fanno parte dell'eccezione. Le considero tutte e considero come tutte stiano cambiando, stiano diventando altre cose, proprio come la chimera è un po' di tutto, in questo momento in cui forzatamente, anche se soltanto da poche settimane, ma l'obiettivo si fa anche molto remoto, a distanza. Stanno cambiando molto, noi siamo confortati dal fatto che abbiamo comunque degli strumenti digitali per restare in contatto, ma questi non ci aiutano. Vediamo che o la troppa promiscuità, lo stare forzatamente assieme, vicino, quella che aveva parlato era dal canale YouTube Dreamer Lulu 93, che raccontava di un fidanzato lontano, ma qualche giorno fa, con cui si sentiva per i mezzi telematici, ma continuerà ad andare avanti questo rapporto, cos'altro sarà diventato? Entrambi saranno comunque sottoposti a un continuo stimolo di altri incontri telematici. Oggi tutti chiamano tutti, ho un'infinità di amiche che mi dicono: guarda, mi chiamano colleghi sconosciuti dicendo: dai, ti fai vedere sulla webcam e chiacchieriamo un po', e vogliono entrare anche in una promiscuità di rapporto che non abbiamo mai avuto nella vita reale. Quindi quella è una chimera, è una mutazione. Un'altra mutazione sono i rapporti e le coppie stabili. Persone che si amavano alla follia, che sognavano una vita assieme, adesso che possono stare assieme dalla mattina alla sera e vedono che la condivisione dei propri miasmi corporei in uno spazio limitato non è proprio il massimo per alimentare l'amore. Altresì le persone che hanno rapporti con persone con cui non convivevano, Vedete il vostro amante, il vostro amore, il vostro fidanzato o la vostra amante, la vostra innamorata, la vostra fidanzata, la vostra trombamica o il vostro trombamico. Oggi non li vedete più, non potete più avere con loro un rapporto, anche se sporadico, anche se lontano. Nessuno può più muoversi da casa propria, nessuno può più ricevere persone a casa propria. E quindi cosa si fa? Si crea una mutazione, una sorta di tromba casualità. Immagino che gli assemblaggi di persone che sono abituate a rapporti fluttuanti avvengano nell'ambito del proprio condominio. Improvvisamente ci si accorge che un vicino, una vicina sul quale non si era mai fatto nessun pensiero, diventa merce appetibile per una relazione. Ora, io mentre stavo riflettendo e ascoltavo le trasmissioni che mi precedevano su questo tema, ho ripreso in mano un libro che mi fulminò quando uscì, mi sembra ieri, ma era il 2003, sono passati 17 anni, è Amore liquido di Zygmunt Bauman. Allora mi affascinò la teoria di questo antico, anzianissimo, è morto mi sembra da pochi anni, pensatore e osservatore della società, su questa liquidità che noi cambiavamo, la nostra condizione corporea sta trasformando in una nostra liquidità, perché la società era in continua mutazione. Non avevamo allora immaginato però una mutazione così veloce come quella di queste settimane, in cui rimettiamo nuovamente in discussione tutte le nostre relazioni. Vi leggo soltanto 3 righe da questo libro che mi sembrano puntualmente applicabili alla realtà di oggi. Lui era molto critico, lui diceva che le connessioni non dovevano sostituire le relazioni, e su questo non sono mai stato d'accordo. Cioè, ma come? Siamo connessi come se ci relazioniamo? Sì, parlavo bene, perché poi alla fine della connessione c'era sempre un incontro comunque, o la possibilità di un incontro. Oggi non c'è più e cambia tutto. Dice Bauman, tutto questo avvicinarsi, allontanarsi, rende possibile seguire simultaneamente l'anelito di libertà e la brama del senso di appartenenza e di mascherare, se non compensare pienamente, la fallacia di entrambi gli struggimenti. Cioè, noi ci strugge il desiderio di essere liberi e allo stesso tempo di appartenere e di avere qualcuno che ci appartenga. E riuscivamo a compensare questa nostra frattura interiore col fatto che ogni tanto ci sentivamo liberi perché evadevamo attraverso i nostri mezzi telematici, sentivamo di appartenere o che qualcuno ci appartenesse, creavamo la verifica, cosa fai, dove sei, mi chiami, perché non mi hai risposto e via dicendo. Oggi è nuovamente tutto in discussione e quindi vorrei che questo argomento fosse con voi eviscerato attraverso la modalità dei 30 secondi. Troppo vicini o troppo lontani? Il coronavirus sta cambiando i nostri rapporti interpersonali e le categorie che li definiscono. Con la quarantena obbligatoria si stanno creando vere e proprie chimere relazionali, vale a dire nuove forme ibride di quello che solo poche settimane fa era un rapporto di coppia, una convivenza, oppure una relazione a distanza, o una storia clandestina. Tutto viene ridefinito da due circostanze opposte, o la troppa promiscuità o l'impossibilità di un contatto ravvicinato. Aiutateci a definire queste mutazioni chiamando ora l'800240024. Avete 30 secondi per raccontarci come era la relazione con il vostro partner, di qualsiasi tipo fosse, prima della quarantena e cosa sta diventando oggi. 800240024, uso la modalità dei 30 secondi che vi obbliga ad avere una rapida sintesi di quella che è la vostra situazione, voglio la storia senza premesse, poi magari cerco di intervenire e di tirare fuori degli argomenti o delle situazioni che maggiormente possono permetterci di definire la chimera che state vivendo. Abbiamo tanto 800240024, chiamate, ho anche sollecitato il nostro canale Telegram, Melog ha parlato, che in questo momento è Melog Home Edition, perché io sono a casa, Fabrizio Intonti è a casa, quindi facciamo una trasmissione leggermente cambiata, è una chimera anche la nostra, una chimera di relazione con un pubblico vasto, cambia perché io sto a casa, è molto diverso che io stia a casa rispetto a che vada in uno studio, veda delle persone e faccia un percorso in metropolitana. Allora, Fiorella da Roma, prima ascoltatrice, pronta per i 30 secondi? Sì. Vai. La mia relazione prima della quarantena è uguale adesso nella quarantena, ma non lo era quando stava per cominciare, perché io non ero con il mio compagno in quel momento. Ho deciso di tornare perché mi sono resa conto che era un momento che dovevamo assolutamente passare insieme. In grandissima sintesi. Invece per quanto riguarda le altre relazioni, io so pochissimo su... Allora, 30 secondi, le cose essenziali Fiorella le ha dette, ha detto che stava lontana, era lontana dal suo fidanzato per lavoro, in occasione di lavoro oggi è difficile da lasciare in secondo piano, ma il coronavirus ha fatto sì che sentisse il desiderio di andare a vivere, ritornare a vivere con lui. Quindi hai abbandonato il tuo lavoro per andare a vivere con il tuo compagno? No, non l'ho abbandonato il lavoro da casa, fare la quarantena fuori per farla qui, ho preferito farla qui. Ecco, avete già finito la quarantena? No, l'autoquarantena, in realtà, diciamo. No, in realtà non propriamente la quarantena, l'isolamento sociale. Ecco, quindi, cioè, siamo, e dici come cambia la relazione? Perché adesso non è una semplice convivenza, uno potrebbe dire ma io ho già convissuto con il mio ragazzo, con la mia ragazza, con il mio compagno, figuranti cosa cambia? No, cambia molto. Adesso la convivenza è H24, in ogni secondo, non c'è un momento di solitudine, non c'è un momento di libertà, e in più penso che se entrambi facciate un lavoro da casa, entrambi dobbiate lavorare, avete la fortuna poi di essere soli, non avere figli, non avete animali, non so se avete animali, e via dicendo. No. Che, ecco, cosa è cambiato radicalmente? Quanti giorni sono che tu stai vivendo assieme a questa persona in maniera diversa rispetto a ogni possibile precedente modello di convivenza? 12 giorni e quello che cambia è che potenzialmente non c'è nessun momento per nascondere i momenti di sbrocco, diciamo, cioè quei momenti in cui si perde la calma, come è normale perderla in queste circostanze. Devo dire che nel mio caso non è cambiato molto, perché già prima avevamo una relazione dove stavamo molto tempo insieme anche in quei momenti. Potenzialmente adesso non c'è nessun momento in cui nascondere un momento di grande tristezza o di ansia, quindi è tutto anche palese. In questo momento che tu stai chiamando la radio, lui sarà per casa e ti ascolterà, non è che nemmeno può fare una telefonata. Mi sono chiusa in una stanza. Sì, e lui, non so, a meno che non abbiate un appartamento di 300 metri quadri, ti dirà a un certo punto che stai facendo, con chi parli, perché parli e non mi hai chiamato, non me l'hai detto, vedi no, che già ci sono dei problemi. Ho detto lasciami sola perché devo chiamare Melug, e lui mi ha lasciato da sola, quindi c'è molto rispetto. Sì, c'è molto rispetto. È fondamentale quindi, avere degli, diciamo, creare degli spazi. Al di là del fatto che non hai la totale libertà di esprimere quello che stai sentendo, questo lo trovo normale, perché poi ci sarà un red reazione. Trovi delle mutazioni, ci sono delle mutazioni rispetto al rapporto, rispetto a quello che facevi ogni volta che tornavi da Bruxelles e stavi a casa normalmente col tuo fidanzato? Il motivo fondamentale per cui sono tornata, cioè la consapevolezza di star vivendo insieme, uniti, un momento molto particolare. Cioè un momento in cui speriamo... è fondamentale. Cioè, se fossimo stati lontani avremmo avuto due esperienze diverse di questo momento, avremmo avuto anche ricordi differenti. Avete desiderio di averla passata insieme. È una scelta che conosco, fatta da molte persone, potranno scegliere fra lo stare ognuno a casa propria e insieme hanno scelto di stare assieme. E tu stai bene dopo 12 giorni, altre persone che conosco hanno sbroccato, dopo 4 giorni sono tornate da mamma e papà. Vittorio da Roma, buongiorno, sei pronto? Buongiorno, sì, pronto per i 30 secondi, sintetizza in 30 secondi, vai. Allora, io dopo diverso tempo sposato, mia moglie è venuta a mancare, dopo qualche anno ho trovato una compagna di Firenze, lavora ed è residente lì. Io sono residente a Roma e ci vedevamo nei fine settimana o nelle occasioni speciali. Chiaramente le esigenze che sono sorte con il coronavirus ha azzerato questi nostri incontri, che fisici, sono diventati soltanto di carattere virtuale, quindi telefono, WhatsApp, Zoom e compagnia cantante. Quindi, cioè adesso la grande moda è tutti usano Zoom, che era una piattaforma, veniva usata per fare riunioni nelle aziende, adesso non c'è Zoom, sei considerato un avanzo della società. Ieri mi hanno chiamato, ma non hai Zoom? Sì, ce l'ho su 3 computer, non ce l'avevo sul telefono, pazienza. Ecco, Zoom è una cosa come un'altra. Telefono. Ma perché Zoom è tanto di moda adesso? Perché con Zoom si fanno gli aperitivi insieme, non è che rappresenti, secondo me, qualcosa di diverso da altre piattaforme, sinceramente. No, non aggiunge, non è un vero valore aggiunto, se non quello di avere queste videocamere, che ognuno ha la sua webcam, per cui hai questa sensazione di essere collegialmente collegato, ecco, quindi c'è quello schermo. Sì, la sensazione di star seduto a un tavolino con davanti altri amici, 6, 7, 8, 10, quanti amici vuoi, e si fa una chiacchierata comune. Nocciolina, aperitivo, e sei lì tranquillamente. Sì, quello che stanno facendo un po' tutti, vediamo poi quanto potrà andare avanti. Quindi, diciamo, la chimera che in qualche maniera sta attraversando il tuo rapporto è la mancanza del contatto fisico, assolutamente, semplicemente. Assolutamente sì, quello è l'aspetto preminente che manca, che ovviamente almeno sia io che lei ovviamente ci manca, è quello che più evidentemente questo coronavirus ha portato. Però ancora sei nella fase che si dice vedrai quanto sarà bello quando ci rivedremo dopo tanto tempo, ma più passano i giorni più questo quanto sarà bello sembra allontanarsi e sembra che si allentino gli ammortizzatori di tenuta di un rapporto. Dice sì, ma fra quanto ci vediamo? E alla fine vorrò capire, rifarò questa trasmissione fra una settimana o due e vedrò intanto com'è cambiato. Grazie. Lorenzo da Bologna, buongiorno. Buongiorno, salve, salve. Ah, pronto, innanzitutto definiamolo in 30 secondi, vai. Niente, la mia relazione coniugale o comunque i miei rapporti sociali e la vita in genere è molto migliorata perché siamo tornati indietro negli anni 80-90, c'è più tempo per la famiglia, più tempo per la qualità di vita in genere, il tempo è rallentato, quindi speriamo che anche dopo il virus questo si mantenga. E poi tutte quelle finte relazioni sociali finalmente si possono essere procrastinate a dopo il virus. No, nel tuo caso la chimera che si è creata con la tanta promiscuità è quello che ha ritrovato una dimensione tradizionale della famiglia che magari forse ti mancava, è questo il fatto? Sì, esatto. Siamo, l'economia ha rallentato, quindi quell'esasperazione verso il lavoro, quindi il dover rendere. In quanti vivete in casa? Quattro. E i figli quanti anni hanno? Ah, piccoli, 2 e 5. Quindi diciamo, vi gestite H24, due bambini piccoli, e voi due, una casa, quanto è grande la casa? Perché qua cambia molto le dimensioni della casa. È molto piccola, sarà 50 metri quadri, 60. Ecco, diciamo, tu sei proprio nella situazione, diciamo, classica di un'infinità di persone che stanno improvvisamente un appartamento che mediamente non è enorme, un appartamento che ha una coppia all'inizio della propria vita, esatto, comune. Avete due figli piccoli, speravate che magari andando avanti col lavoro vi sareste allargati, sarà bisogno di camerette per i bambini singole quando diventeranno ragazzi, via dicendo, ma in questo momento vivete nella cuccia tranquilli pensando che il pericolo è fuori, voi vi riscaldate a vicenda, questa è la situazione, sì, che prima non provavate, questo senso di soli, sì, contro, sì, il mondo. Esatto, abbiamo più tempo per i bambini, poter andare al negozio sotto casa, senza dover correre al supermercato, correre al lavoro, correre alla scuola, insomma è tutto più umano. È un rallentamento in questo momento per voi ha migliorato la vita. Ecco, ci fermiamo, sì, soltanto, sì, soltanto un secondo per dare le informazioni, mi sembra, del traffico in questo momento, poi ci risentiamo tra poco. Melog. Io resto a casa. Non ci sarà più una. Ma che sbuffi a fare? Ce ne dobbiamo stare a casa. Lo so, il problema non è questo. E quale? Che dobbiamo stare insieme 24 ore su 24. L'Italia. Mamma mia, Carmen. Vabbè, dai, proviamo ad organizzarci. Proviamo a fare un elenco delle cose che possiamo fare per ingannare il tempo. Dormire. Ok, e diciamo che sono 8 ore. Ne mancano 16. E vabbè, diciamo tra pranzo e cena un paio d'ore. Ah, potremmo riprendere quella vecchia attività. Quale? Il sesso, è proprio quella, è una cosa in un quarto d'ora. Un quarto d'ora? Sei ottimista? Docce comprese. Ah, ok. Questo è uno sketch fra marito e moglie in isolamento dal canale YouTube Il Matricomio. Devo dire che nella satira, nei meme che circolano in rete ci sono visioni molto meno ottimistiche di quelle che vengono dai nostri ascoltatori. Sembrano tutti felici, hanno ritrovato il calore familiare, che bello stare in 50 metri quadri con due bambini di 2 anni, quanto siamo felici, che bello ritrovare il mio fidanzato, siamo tutto il giorno chiusi dentro casa, quanto siamo contenti. Sono chiusa però nello sgabuzzino perché così posso parlare tranquillamente alla radio. Quando uscirà da quello sgabuzzino che succederà? Tutti contenti, io sono felice, non è che voglio fare il disfattista. Io trovo che si creeranno delle mutazioni radicali nella nostra società, sarà rimesso in discussione tutto, saranno messi in discussione i matrimoni, le coppie, gli amori, le frequentazioni, le derive fantasmatiche, le compulsività, si creeranno degli istinti alla castità in persone che prima si concedevano ovunque e comunque, finiranno amori che sembravano incrollabili, rinasceranno amori che sembravano sopiti, spenti, c'è anche molto il rifarsi vivo degli ex, mi chiamano, sai, mi ha chiamato una persona che non sento da anni, un altro che, con cui mi ero sbattuto la porta in faccia, improvvisamente mi cerca e vuole vedermi, e via dicendo, vedermi naturalmente via telecamera. La graduale accostamento a una persona che non si vedeva o che non si vede attraverso le forme telematiche lenisce quello che può essere l'impatto del rincontro. Secondo me sta cambiando molto, cambia moltissimo. Maria Grazia da Verona. Sì, buongiorno. Sei pronta? Sì. Prima di tutto i 30 secondi spegni la radio, sennò c'è un eco terribile. Vai. Sì, 14 anni fa io e il mio compagno ci siamo conosciuti in una chat online. Siamo due vedovi e abbiamo casa a 150 km di distanza l'uno dall'altro, quindi ci spostiamo periodicamente per periodi più o meno lunghi da una casa all'altra. Abbiamo deciso di vivere questa quarantena separati per evitare praticamente la convivenza forzata troppo lunga, perché si presume che sia lunga, e anche per un'opportunità sanitaria, diverse residenze, diversi medici di base, eccetera. Paradossalmente siamo ritornati all'origine, cioè a quando ci siamo conosciuti sul web. Oggi però Skype ci aiuta. Maria Grazia, voi avete fatto una scelta, potevate optare anche per vivere a casa di uno, a casa dell'altro, era possibile per voi? Sì, abbiamo fatto una scelta di opportunità sanitarie prima di tutto, perché avendo due ASL diverse, due medici di base diversi e con la in Veneto con il rischio grosso, insomma, della zona rossa di Treviso, lui è a Treviso, abbiamo fatto questa scelta e ci stiamo rendendo conto che forse non è del tutto sbagliata, perché stare 24 ore attaccati l'uno all'altro, soprattutto per noi che siamo abituati a un tipo di rapporto. Ogni quanto diverso. Vi vedevate prima, Maria Grazia, prima diciamo del coronavirus? Molto spesso, nel senso, non so, praticamente non passava, cioè ogni settimana, diciamo, si facevano. Beh, diciamo, la classica routine di due persone che si vogliono bene, che stanno a distanza, sì, si vedono i fine settimana, esattamente, magari. Esattamente, sì, sì, esattamente. Però è 14 anni che avete questa routine, quindi non è proprio, diciamo, è un rapporto abbastanza consolidato. Sì. Sì, è molto consolidato, non abbiamo molta paura di quello che potrebbe capitarci, ecco, a livello di rapporto. Ci fa quasi sorridere il fatto di essere ritornati alle origini con un rapporto privo della fisicità, se vogliamo, no? Però... Ecco, ma come compensate? Senza, naturalmente non voglio particolari scabrosi, ma vi date degli appuntamenti, cioè tu ti fai bella, ti trucchi quando devi vederti con lui? Sì, esattamente. La prima volta che siamo riusciti a collegarci con Skype, perché lui non l'aveva e quindi ho dovuto a distanza, diciamo, fare il tutor per fargli avviare il programma, tutti e due senza dircelo ci siamo fatti belli e quindi ci anche ha perché diciamo la routine cosa. Quotidiana, cioè io sto trasmettendo la radio in pantaloncini, mi si vede solo la parte sopra, quindi chi se ne importa, sono scalzo con pantaloncini sportivi, esatto. E mi sono messo una felpa sulla maglietta con la quale ho dormito stanotte, però nessuno se ne accorge. Però è chiaro che se uno deve mostrare un aspetto per la persona che vuole mantenersi, vuole mantenere il rapporto, penso che il vostro interesse è mantenerlo. In questo momento avete ritrovato una dimensione fanciullesca di un rapporto, che era già un rapporto fra persone, diciamo, adulte. Sì, al di là di tutte le paure, ci sembra quasi una cosa così fiabesca. Lui ti ha mai espresso in questi giorni dei momenti di gelosia? Sì, Vedi, questa è la chimera, la novità che nessuno pensava. La gelosia del nulla, dell'incorporeità, perché lui penserà, lui penserà, come in questo momento sta chattando con me, si fa carina, magari si mostra anche in atteggiamenti sexy, lo potrebbe fare con chiunque altro, visto che ha tutta la giornata avanti, io non sto lì a controllarla. Quindi sta nascendo la gelosia per le corna digitali, che secondo me è fantastica in questo momento, perché non puoi verificare, non puoi controllare, non puoi nemmeno fare quegli atti sconsiderati, violenti, fammi vedere la cronologia. Quindi come tu stacchi con lui, dici adesso devo cucinarmi la frittata, in realtà lui può pensare e fai qualunque cosa, e come insegna il sommo maestro Miyazaki nella chiave, questo molte volte può essere un alimento erotico anche per il rapporto. Sì, ma Alessia da Roma, sì, dimmi, finisci, ma che Angela, non volevo. Casomai ci fosse un tradimento sarebbe sempre online, ecco, per il momento. Sì. Sì. Le nostre nonne dicevano basta una lavata, una asciugata, tutto torna come prima, in questo caso basta resettare il client che si è usato e tutto torna come prima. Alessia da Roma, buongiorno, pronta 30 secondi, vai. Sì, pronta. Allora, io e mio ragazzo non vivevamo insieme, però abbiamo deciso di fare la quarantena insieme in un monolocale, cioè c'è una stanza soltanto, veramente poca privacy, e adesso mi sto chiedendo se abbiamo fatto la scelta giusta, non perché stia andando male, però se questa nostra relazione non dovesse sopravvivere alla quarantena era perché non era destinata a sopravvivere o perché l'ho sottoposta a una pressione che non era necessaria, cioè alla fine questa non è la vita reale, quindi... Niente, sono partita una serie di pippe mentali a cui non riesco a trovare una soluzione. Vediamo di dipanare, che non sono pippe mentali, sono domande molto lecite, Alessia. Tu dici, io ho voluto fare una scelta d'amore, ci vogliamo bene, stiamo assieme nel momento della disperazione, è logico, tutti lo vorrebbero, la prima scelta è quella. Però logicamente non tutti vivono nella reggia di Caserta, capito? State in un monolocale in due. È bello se uno deve fare la chiusa di sesso, dice ci riempiamo di superalcolici, di cose buone da mangiare, buttiamo via la chiave e stiamo insieme, ma la chiusa può durare una mezza giornata, un giorno, un fine settimana e mezza giornata è lunedì, si può arrivare al lunedì pomeriggio, ma poi ognuno deve uscire fuori per la sua vita. In questo momento tu hai fatto una scelta molto drastica, ma al di fuori di quella che è una salutare regola di mantenere in vita un rapporto. Te ne rendi conto benissimo che tu, il fatto che tu ti ponga queste domande, tu dici io non ce la faccio più, comincia a non farcela più, è vero, un momento che tu o lui direte cosa facciamo, e sarà anche complicato, perché cosa fate adesso? Vi fate l'autodichiarazione che dovete andare a lavorare e ve ne andate, che ne so, da un'altra parte, è un po' difficile, ormai lì state. Forse volendo potrei tornare a casa mia, perché comunque siamo dentro Roma tutte e due. Però è anche difficile dirsi, ok, lasciamoci adesso, ma non sappiamo quando ci vedremo, perché non sappiamo quando questa situazione finirà. Poi un'altra domanda è appunto, se dovesse andare male questa quarantena, cioè mi chiederò sempre, è perché ho forzato la mano o perché doveva essere così? Quindi cioè, alla fine non posso avere risposte fino alla fine di questa quarantena, purtroppo. Beh, tu vedilo anche con fatalismo, la quarantena mi ha messo di fronte una sorta di ordalia. Ho passato la muraglia di fuoco e ho capito che questo era un amore che non sarebbe durato. Forse una quarantena di un mese di forzata convivenza equivale a 20 anni di matrimonio, dopo il quale ci si prende a colpi di motosega. Quindi hai fatto altro che accelerare un esito fatale. Quindi tutto sommato sarete fortunati. Beh, in bocca al lupo, rifarò questa trasmissione fra una settimana e vorrò vedere gli esiti di tutte queste persone. Gianni da Pescara, pronto? Pronto, buongiorno. 30 secondi, vai. Allora, egoisticamente devo dire grazie a questa situazione drammatica, perché sono tornato ad assaporare quelli che sono i momenti felici in famiglia. Io per lavoro ero spesso in viaggio, spesso fuori, quindi praticamente ho vissuto una vita familiare totalmente distaccata. Adesso con i figli facciamo dei giochi da tavola, in famiglia si riunisce, si ragiona, si parla di questa esperienza che per quanto drammatica, comunque ci è riuniti. Stop. Quindi anche tu, diciamo, hai ritrovato un calore familiare che non immaginavi prima. Hai figli, mi hai detto, no? Due, sì. Ma quanti anni? Uno 16 e l'altra la piccolina 7. Ecco, il 16enne soprattutto... È della tua stessa idea che sia tanto bello stare a casa a giocare a mercante in fiera col papà e la mamma? Allora, ovviamente si è adeguato anche lui. certo. Diciamo che ho riscoperto... L'alternativa non esiste. Esatto, un attaccamento... Se non lo sbrocco. Molto forte, ci sono stati dei momenti difficili, non lo nego. Io poi tra l'altro, ripeto, egoisticamente ho anche la fortuna di potermi muovere ancora per esigenze lavorative, che sto cercando di organizzare anche la mia azienda riconvertendo parte della produzione. Tu esci allora, ci sono dei momenti che tu prendi una boccata d'aria, gli altri rimangono dentro, ma tu puoi uscire. Esatto. La vedi abbastanza differente da quanto può vedere un sedicenne che comunque non può mettere il naso fuori casa. Io conosco, io non ho figli di 16 anni, ma figli comunque sempre in un'età in cui piace soprattutto il maggiore andare in giro. Anche la piccolina soffre certi momenti, quindi io cerco comunque di agietare, diciamo, la vita familiare con degli interventi per cambiare un po'. Pensa come ricorderà soprattutto il sedicenne, ma anche la bambina di 4 anni, perché certi ricordi ormai rimangono a 4 anni, questo periodo in cui si stava tutti dentro casa. Pensa a tuo figlio di 16 anni quando lo racconterà ai figli, dirà: c'è stato un periodo che dobbiamo star chiusi dentro casa, mangiate la fettina, come dicevano a me i miei genitori quando mi raccontavano dei bombardamenti, mangia che noi non c'avevamo nemmeno un pezzo di pane, andavamo alla borsa nera, e noi sentiamo pieni di sensi di colpa in pieno boom economico, che era una situazione folle. Isabel da Cremona. Sì, Romanengo, sono arrossissima a 8 chilometri da Crema. Allora, ferma un attimo, sono i 46, devo dare la linea. Respira e medita, fra un secondo avrai modo di esprimere in 30 secondi qual è la tua situazione. Un secondo solo. Melog. Amore, ho trovato un modo per venire a casa tua senza farmi fare la denuncia dai carabinieri. E come, scusa? Praticamente mi faccio assumere dalla pizzeria sotto casa, così poi ti consegno la pizza a domicilio e il resto a casa tua per sempre. Sei contento? Sì. Dove vai? A buttare immondizia. Ma no, guarda, tocca a me, eh. Questa è un'altra clip da Coppia in Quarantena, al canale YouTube di Lele Sarallo. Tanti si stanno destreggiando nel costruire situazioni paradossali, quello che può accadere. Mi ha chiamato ieri un'amica mia, molto simpatica e felicemente disinibita, dice: io sto studiando con il mio amante la maniera di poterci vedere velocemente per poter stare assieme. Io penso, se mi metto more pecorum e resto lì immobile, non c'è scambio di saliva, quindi potremmo forse avere un fugace rapporto, chissà, che dici? Dico: ma che ne so, chiedi agli esperti della protezione civile. Isabel, dai, pronta, 30 secondi, vai. Ciao tesoro, e io sono arrivata dall'Argentina, perché sono andata all'Argentina, vivo qua in Italia da 30 anni a firmare mia mamma, sono cose della vita che succedono, ma ne doveva entrare il 25 di marzo, però il governo argentino ha chiuso la frontiera, quindi il 15 sì doveva venire. Se arrivo a Roma non aveva niente, mio marito non sé quanto si è girato tutta la Lombardia per mandarmi un taxi, perché altrimenti come arrivava a Roma, nella provincia di Cremona, un passo di Crema, sono riuscita a tornare, non vedevo la ora. Un matrimonio di 30 anni e ho cresciuto a sua figlia, abbiamo dotato 4, eccetera, eccetera. E quando alla fine dice: oh, da 30 anni con la mia stessa minestra, e no, è stato un colpo di fortuna, perché ci ha illuminato qualcosa di bello, che abbiamo detto: se siamo di 30 anni, qualcosa c'è. Nonostante tutta la mia famiglia dirà: no, venire perché mettere i piedi nelle braccia e tutto quello lì, no, io sono tornata, sono contentissima di essere in quarantena con mio marito. Perché lui adesso, siccome mi ama, io lo amo, mi fa tutte le cose in casa che fino a ieri non me l'aveva mai fatto, quindi lo voglio tenere in quarantena ancora altri 3 mesi. Vabbè, Isabel, grazie, tu hai ottenuto quello che non sei riuscito a ottenere in 30 anni di felice matrimonio, hai zerbinato tuo marito per la quarantena, e adesso, finché ti piacerà, ti divertirà questo gioco di avere lui che ti cucina, si lava i suoi pannicelli, si lava i pedalini, le mutande, ti serve tutto, sarà un bel gioco. Quindi hai concretizzato il sogno di una vita, di ogni donna probabilmente, riuscire finalmente a mettere l'uomo completamente soggiacente a quelli che sono le incombenze domestiche che per tradizione scellerata toccavano solo la donna. Quindi per te la chimera è stata fondamentale, mi rendo conto, hai attraversato oceani, difficoltà, pregiudizi familiari, ma finalmente il tuo uomo sta lì e sta facendo il bucato. Stefano da Napoli, buongiorno. Pronto, buongiorno. Volevo dire, io sempre fermo, fermo solo nei 30 secondi, l'anticipazione nei 30 secondi, vai. Ecco, che per esempio io non ho mai avuto internet, per esempio con la mia fidanzata siamo a una certa età, anche se ci vediamo solo una volta a settimana perché siamo in comuni diversi, anche se non ci vediamo, però ci siamo sempre tenuti in contatto col telefono, cartoline, insomma il vecchio sistema, come sempre, perché noi così abbiamo tenuto, non abbiamo mai avuto internet, questo è quanto. Quello che conta insomma è che si sente. Ho capito poco, Stefano. Allora, tu c'hai una fidanzata lontana che non abita con te. Lontana no, siamo in comuni limitrofi, però ci potevamo ma il vecchio sistema, come fate il vecchio sistema? Non è che ci sono le prolunghe, se tu stai a casa sua, casa tua e lei a casa sua, che fate? Ci contattiamo anche se non abbiamo internet, non abbiamo mai avuto internet, noi ci siamo sempre con del vecchio sistema. E qual è il vecchio sistema? Scusa, la telepatia. Cartoline, scritte, telefono. Ma le cartoline dove le imbuchi? Quale postino te le porta? Cioè tu telefoni, vi parlate al telefono, ecco. Anche cartoline ci mandiamo, come è sempre fatto, ci siamo abituati, siamo rimasti presenti alla vecchia maniera, ci siamo abituati sempre. Però non vi vedete, non vi vedete. Vabbè, ci vediamo una volta alla settimana, ma ci si sente. Sì, ma quel vedervi una volta alla settimana non esiste più, è finito. Sì, perché vabbè, già da prima, poi vabbè, poi qualche volta capitava anche durante la settimana in qualche modo. Sì, ma adesso cosa fai? Scappi, passi attraverso la barriera dei sorveglianti, la vai a vedere lo stesso o te ne stai a casa tua? No, ci teniamo sempre, io sono nel proprio comune, poi dopo, tanto non è che durerà molto, passeremo questo Dio lo sa, no? Cioè Dio lo sa, non è nelle nostre disponibilità definirlo. Se durasse molto che fai? Vabbè, ci si arrangia in qualche modo, si arrangia, si vede sempre, ci si piglia la vesuviana, queste cose. Non si può uscire, non si possono prendere i mezzi. Ti pongo l'ipotesi più drastica: non ci si può vedere, che fai? Esci di notte e tenti comunque l'assalto alla fidanzata? No. I mezzi si pigliano, cioè, in qualche modo uno se li piglia sempre i mezzi. Vabbè, ecco, tu stai pensando a una maniera clandestina di uscire, eludere la barriera di sorveglianza, andarla a vedere, qualcosa di romantico ma anche molto pericoloso. Ma non c'è quella cosa ristretta, non c'è quella ristrettezza di stare, ma è quello che ci fa paura a tutta Italia, che non ci sia la cosa ristretta, invece dovrebbe esserci, secondo me. Non è che perché si può andare senza cintura di sicurezza o senza casco sul motorino si possa anche sfidare il coronavirus. Non entriamo in questa idea generale. Tanto adesso ci va, perché si fa conto che ci devo andare per lavoro e ci si va per lavoro. Tu dici di andare a lavorare in quel posto, ti trovi una maniera. Tanta gente ce l'ha per lavoro, per andare per il resto, per studi, allora sei come uno di quelli. Quindi bisognerebbe fare un decreto apposta, decreto amore, in cui viene concesso a ogni cittadino comunque una deroga alla sicurezza su persona che abbia tutti i requisiti sanitari dimostrabili per andare a consumare un incontro fisico. Potrebbe anche essere che prima o poi verrà in mente a qualcuno. Alessandro da Padova, buongiorno. Pronto, 30 secondi, vai. Pronto, allora ciao. Io sono 4 anni che vivo single a casa. Ora sono in quarantena, l'unica sofferenza è il fatto che mio figlio vive con sua madre, ma va bene così. Detto ciò, in questi 4 anni ho avuto molte relazioni digitali e fisiche e ho sempre vissuto un po' con difficoltà il fatto che io fossi sempre alla ricerca del piacere temporaneo. Ora improvvisamente tutto è cambiato, perché improvvisamente tutti i contatti maturati in questi 4 anni mi si sono riversati contro e quindi si sta aprendo un mondo, sono impegnatissimo. Allora, Alessandro da Padova, il santo protettore di Padova in questo momento starà impallidendo ad ascoltarti. Cioè, tu sei un amatore seriale, non c'è nulla di strano, hai allacciato numerose relazioni, hai abbindolato, accalappiato, sedotto persone attraverso il web. In questo momento c'è, diciamo, l'emigrazione di ritorno, tutte le tue fiamme ti chiamano e ti cercano. Ti ricordi quella volta, ti ricordi cosa abbiamo fatto, ti ricordi cosa mi hai detto? Lo sai perché? Perché servono dei supporti di pensiero da abbinare ad attività di autocompiacimento, quindi mi racconti quella volta che eravamo nell'ascensore, cose del genere? Più o meno, non l'ascensore, ma ci sono diverse gradazioni, non è che sono così pette. Descrivene un paio, senza entrare nello scabroso, che non è lo stile di questo programma. Ti ricordi quella volta quando ci siamo conosciuti in macchina, per la prima volta abbiamo fatto ABCD, sì, me lo ricordo, lo rifaresti, ma sì, vediamo, oppure... Ma questo secondo te di cosa è sintomo? Ci sono tante persone sole, se vai a ricercare la fiamma che era stato un amorazzo fisico, che, sì, di quelli che si dimenticano, uno dei tanti, non c'è nessun problema, sì, vuol dire che sì, c'hanno tutti ormai il database del passato che serve, sì, a illuminare il vuoto del presente. Esatto, che non so quanto durerà, sicuramente in questa situazione contingente è forte, poi vedremo per il futuro quanto effettivamente sarà un, come dire, un investimento di ritorno, boh, non lo so. Però sai, devo dire, fa parte delle chimere che avevamo vaneggiato all'inizio della trasmissione, questa è una vera e propria chimera, riemergono come fossero cadaveri di affogati che riprendono vita, gli amorazzi carnali del passato, perché ricercano comunque dei contatti con una realtà che non c'è più, è molto interessante. Michele da Milano, pronto, 30 secondi, vai. Sì, ciao Gianluca. Essenzialmente da quando il coronavirus è iniziato, io e la mia partner, che prima ci vedevamo non quotidianamente, ma anche per la distanza eravamo forzati a stare distanti. Diciamo che nel momento in cui c'è stato il decreto, il primo decreto dal 6 al 7 marzo, eravamo in casa insieme, quindi nel gioco forza dopo un po' abbiamo deciso di rimanere lì insieme. Poi lei è una studentessa, io lavoro fortunatamente da casa, siamo riusciti in un modo o nell'altro a continuare, diciamo. La cosa principale è che siamo riusciti a, tra virgolette, rielaborare, ripensare e appunto sorpassare anche degli eventi o comunque degli screzi che magari c'erano stati precedentemente nel nostro rapporto. È come se ci fosse stata una sorta quindi di... Quindi per te la chimera è che nel momento di paura, di disperazione, di isolamento, di necessità, si smussano gli angoli, il rapporto è migliorato. Anche questa è una chimera. Beh, siamo arrivati alla fine della trasmissione. Ringrazio Paolo Corleoni e Anita Panizza da Milano, Alessandro Chiappini da Roma e Fabrizio Intonti da casa sua, beato lui, ma anche come me d'altronde non ci possiamo lamentare. La nostra chimera è soltanto professionale, perché viviamo entrambi nell'eremo della solitudine. Alla prossima.